Ragazzi e ragazze carissimi in ascolto, Ave Maria a tutti, dottor Leonardo Maria Pompei, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Come tutti sapete, ragazzi, stiamo ormai da tempo, questa credo che sia la 35esima puntata, affrontando il tema dei 10 comandamenti, di cui siamo giunti al sesto, che ci sta già occupando da qualche puntata. Vi ricordo che la volta scorsa abbiamo affrontato il tema della contraccezione, diciamo, dentro il secondo blocco, diciamo così, dei peccati impuri, che sono quelli contro la santità della vita umana. Abbiamo prima visto quelli contro la santità del matrimonio come sacramento di unione perpetua e indissolubile tra uomo e donna. Adesso stiamo vedendo i peccati contro la vita. E credo che durante le introduzioni a suo tempo accennai che di questa tipologia di peccati praticamente ci possono essere due sponde completamente e diametralmente opposte l'una all'altra, cioè i tentativi e le pretese di escludere la vita dalla dimensione degli atti coniugali, che è ciò che abbiamo affrontato la volta scorsa, che è il tema della contraccezione. Quindi, volendo usare un'espressione da ricordare, insomma, uno slogan, l'amore senza la vita. Però c'è anche una vastissima gamma, oggi ahimè molto diffusa, di gravi peccati che sono appunto esattamente il contrario, cioè la vita senza l'amore. Cioè il campo delle tecniche di riproduzione della vita in forma non naturale, quindi al di fuori sia del matrimonio, sia anche, a prescindere dall'esistenza anche del vincolo coniugale sacramentale, a prescindere quindi dalla modalità umana, normale e naturale con cui ordinariamente una vita viene concepita. Ecco, è il campo di cui oggi parleremo con l'aiuto del Signore, e dell'inseminazione e della fecondazione artificiale. Vi dico subito, sono tutte e due, in ogni caso, moralmente e gravemente illecite in quanto contrarie alla legge di Dio. Ora, prima di trattarle, diciamo, ciascuna nel dettaglio in particolare, bisogna fare qualche piccola premessa, diciamo così, di vocabolario. Quindi, qual è la differenza che c'è tra l'inseminazione e la fecondazione? E poi sia l'inseminazione che la fecondazione possono essere omologhe o eterologhe, e quindi capire un attimo la distinzione delle varie fattispecie. Allora, la distinzione fondamentale tra inseminazione e fecondazione è la seguente: che mentre l'inseminazione non è altro che una tecnica artificiale di concepimento della vita, che però avviene, come dire, all'interno dell'utero della donna, cioè non è altro che un tentativo di provocare un'unione forzata tra il seme maschile e l'ovulo femminile, causata generalmente, quando questo accade, da difetti in ambito generativo, generalmente ma non sempre esistenti nell'ambito, voglio dire, dalla parte del maschio, insomma dell'uovo, dell'uomo. Quindi è una forzatura, come dire così, artificiale di un processo che avviene comunque, almeno nella parte conclusiva, diciamo in forma naturale. Quindi di fatto la fecondazione avviene all'interno dell'utero della donna. Mentre le fecondazioni artificiali, appunto, come dice il nome stesso, è nota anche come FIVET, cioè fecondazione in vitro, consiste nell'estrazione attraverso, diciamo, metodologie meccanico-chimiche del seme maschile e dell'ovulo femminile, che vengono, diciamo così, fatti incontrare artificialmente, quindi in provetta, e soltanto dopo la fecondazione, immessi in un certo numero, poi vedremo qual è il numero costituito dalla legge italiana, nell'utero femminile. Quindi è qualcosa di completamente, in questo secondo caso, artificiale al 100%. Quindi questo è il vocabolario. Credo che la volta scorsa ho dimenticato, volevo fare una piccolissima parentesi prima di scendere in merito, di dire una parola sull'amniocentesi. Perché l'amniocentesi oggi è altamente diffusa da un sacco di gente, comprese anche coppie cristiane, che la praticano con estrema disinvoltura, pensando che non stanno facendo niente di male. Dico subito che l'amniocentesi in se stessa è gravemente e moralmente illecita. L'amniocentesi si situa, diciamo così, nell'ambito di quelle cosiddette tecniche per intervenire, diciamo così, su eventuali malattie del feto in maniera tempestiva, quindi diciamo che l'ambito di collocazione di questa fattispecie è la cosiddetta diagnosi prenatale. Il problema è duplice però di questa particolare tecnica. Numero uno è che ordinariamente l'amniocentesi è usata a scopo abortivo, cioè per realizzare quello che si chiama tecnicamente una sorta di aborto eugenetico, cioè attraverso l'amniocentesi vengo a conoscere che il mio feto è malformato e quindi mi attivo in tempo, nei limiti consentiti dalla legge italiana o non italiana di qualche altro stato, per poter abortire onde evitare che nasca un bambino malformato. Ecco, e già questo fine sarebbe di per se stesso intrinsecamente illecito. Uno potrebbe dire: no, no, no, no, io non uso l'amniocentesi per questa motivazione, io uso l'amniocentesi semplicemente al fine della diagnosi prenatale. Ecco, ma l'amniocentesi però, non so se tutti gli ascoltatori lo fanno, è una tecnica molto invasiva in se stessa ed è pericolosa per il feto, cioè il fatto stesso di porla in essere pone a repentaglio la vita del feto. È per questo che non si può fare, oltre che per il fine ordinariamente illecito con cui viene praticata. Quindi esistono altre modalità tranquillamente compatibili con la salute della madre e del feto e che non mettono a repentaglio grave la vita del feto, e sono quelle che devono essere ordinariamente utilizzate per intervenire in eventuali serie di diagnosi prenatali per, e questa è una cosa che si può, o meglio, in alcuni casi addirittura se possibile si deve fare, intervenire tempestivamente onde curare da subito eventuali malformazioni oppure comunque, scusate, patologie comunque guaribili da parte del feto. Non l'amniocentesi però, quindi chiusa questa parentesi, ecco, che mi premeva insomma di toccare, e onde poi non lasciare una lacuna non indifferente nella trattazione di questo argomento. Ora veniamo un attimo all'argomento di oggi. Allora, vorrei fare innanzitutto una premessa, come dire, ecco, dottrinale, diciamo così, per far comprendere dove si trova, diciamo, la malizia intrinseca di queste tecniche, a prescindere, da ciò che poi rapidamente diremo in merito. Allora, abbiamo visto che la vita umana, l'abbiamo visto la volta scorsa, è un dono di Dio, cioè il Signore della vita e l'autore della vita è Domine il Dio, il Padre Eterno. Padre Eterno che per fare le vite, quindi per creare delle vite umane, poteva tranquillamente fare da sé. Come sappiamo dal grande San Tommaso d'Aquino, ecco, uno dei fattori discriminanti tra noi e il Padre Eterno è che Dio può fare qualunque cosa da se stesso, non ha bisogno assolutamente di niente e di nessuno, ma proprio di niente e di nessuno, a differenza di noi. Cioè, uno dei nostri limiti proprio ontologici e costitutivi, nessuno può essere talmente sciocco da poterlo negare, è che noi abbiamo bisogno di tante cose al di fuori di noi stessi. Assolutamente evidente, cioè, io per esempio ho bisogno dell'aria per respirare, Se prendo un razzo e me ne vado sulla Luna, o ho la bombola dell'ossigeno, oppure da tempo 2 minuti sono bello che è morto. Insomma, quindi cioè, è talmente strutturale una cosa di questo genere che non serve neanche a faticarsi in dimostrazioni di ciò che dovrebbe essere ovvio. Eppure l'uomo è talmente stupido, perché purtroppo noi facciamo a gara a conseguire la laurea in stupidologia, che è una facoltà oggi, ecco, molto molto frequentata, università presente in tutte le città, anche nei piccoli centri, quindi non c'è bisogno di fare neanche tanta strada per iscriversi e fare i corsi. L'uomo è talmente sciocco oggi, è talmente stupido, che presume o si pensa di poter fare o di essere in grado di fare da sé. Io non ho bisogno di nessuno. Pensate quanto mi arrabbio quando ci sono le persone sono talmente sciocche o sono talmente superbe, orgogliose, che pur di non chiedere qualcosa a qualcuno si crepano, si sfracellano la testa, ma non devono chiedere niente a nessuno. Ecco, per questa forma tanto stupida, quanto odiosa, quanto per altri aspetti ridicola, di orgoglio. Ora, il Padre Eterno non è così. Il Padre Eterno può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, quanto vuole, perché vuole, senza rendere conto a nessuno, senza dover chiedere permesso a nessuno, e semplicemente muovendo la sua volontà verso qualunque tipo di fine o di oggetto, senza possibilità alcuna che nessuno possa minimamente resistergli, opporsi a quello che lui vuole. Punto e basta. D'accordo? Questo noi dobbiamo sempre ricordarlo e tenerlo oltremodo chiaro. Anche perché è stato qualche teologo nato nell'isola di Creta, anche lì purtroppo all'anagrafe dell'isola di Creta mi dicono, insomma, che non hanno più le carte d'identità per fare i documenti, per quanto sta crescendo questa metropoli, e che va sproloquiando e cianciando o sfanfarando, preferite come volete, che Dio avrebbe bisogno di qualcosa fuori di sé, sulla scia di quella grossa sciocchezza che disse un filosofo tedesco molto famoso al secolo, Giorgio Guglielmo Federico, di nome Hegel di cognome, che similmente al demonio, come tutte le persone troppo intelligenti, dopo diventa stupida, perché per giustificare tutto quanto il suo mondo metafisico fondato sulla sua, per certi aspetti, geniale dialettica, disse: guardate, stupido, Dio ha bisogno del mondo per essere Dio, perché se non ci fosse il mondo, come si dimostra la trascendenza e l'onnipotenza di Dio? Quindi, se non ci fosse il mondo, Dio non potrebbe essere se stesso. Pensate un po' di questo, quanto è stupido, guardate un po', pensa un po'. Io non commento questa frase e non la confuto, perché ritengo tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio intelligenti, per cui sono in grado immediatamente di capire quanto è stupida una frase di questo genere, no? Quindi chiudiamo questa piccola. Questo per dirvi che la vita è qualcosa che viene dal Padre Eterno. Il fatto che l'uomo in qualche modo ci sia coinvolto dipende solo ed esclusivamente da una libera determinazione dei voleri dell'Altissimo. Perché Dio certamente non si è accorciato le braccia, per cui come ha creato tutti gli angeli tutti insieme, così poteva tranquillamente creare da sé tutti quanti gli uomini, anche non creandoli tutti insieme, perché magari tutti insieme gli uomini tutta, in tutti i tempi, tutta la storia sulla Terra ci saremmo entrati, insomma, quindi era meglio diluirli nel tempo, forse, chi lo sa. Però nel tempo o non nel tempo poteva tranquillamente prendere e farli lui. Il fatto che abbia coinvolto l'uomo in questa sua operazione non è segno di un suo limite, ma è segno della sua bontà, perché il nostro Signore, come tutte le persone intelligenti, non sta a fare sempre il verso dell'asino. Sapete, no? Qual è il verso dell'asino? L'asino fa io. Quindi Dio non dice sempre io ho fatto, io ho detto, io ho fatto, io. Ecco. Ma come tutte le persone intelligenti, fa lavorare un po' anche il prossimo, no? Quindi si compiace di avere delle persone che con lui collaborano, e rivestendole addirittura di alcune proprietà, anche se nel modo loro proprio, che sono esclusive della divinità stessa. Io dico sempre alla gente, sarebbe da farsi un sacco di risate se uno dovesse pensare che il Padre Eterno c'è bisogno di colui che vi sta parlando o di qualunque altro ministro di Dio per santificare il prossimo. Dice, ma guarda un po', come se io avessi la capacità di santificare qualcuno. A me sembra sempre molto strano quando esercito il ministero sacerdotale nella fede e nella consapevolezza che attraverso quell'esercizio sto santificando il prossimo. Ma immaginate, cioè, io. In questo è ancora più palese, cioè, quando uno va a dire, dice, ma che, ma l'ha confessato al prete, mi confesso al Padre Eterno, diciamo che se vogliamo in teoria sarebbe pure ragione, d'accordo, perché dice, ti pare che il Padre Eterno per i miei peccati c'ha bisogno di un prete? No, non ce n'ha bisogno, però c'è un piccolo problema, che lui ha voluto avercene bisogno, ha scelto di avercene bisogno, questo mica ha scelto io, ha scelto lui. Quindi se tu una volta che il Padre Eterno ha fatto questa scelta, discutibile quanto ti pare, anche se discuterla è già peccato in se stesso perché dici, basta andare a fidare i preti, guarda che soggetti che ci stanno in giro. Benissimo, però fa niente, lui sapeva benissimo che ci sarebbero stati questi soggetti, si è fidato lo stesso. Quindi quando lui fa una cosa, noi dobbiamo semplicemente prenderne atto e agire di conseguenza, punto e basta. Quindi però una volta che lui ha fatto una direzione, ha preso una direzione, non è come noi, che noi facciamo una cosa, dopo ci ripensiamo, dopo cambiamo idea, dopo ne facciamo un'altra, dopo cambiamo progetto, dopo. No! Quella è la via che ha scelto e quella è la via che lui percorre, salvo rarissime eccezioni. Tra l'altro, nell'ambito della vita umana, a mia cognizione, perché io sono comunque limitato, potrebbero successe delle cose che non conosco, eccezioni non sono state fatte mai. Cioè, ricordate quando Gesù dice nel Vangelo, Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste, da queste pietre? Non lo dice Gesù, anzi lo dice San Giovanni Battista quando sono andati a provocarlo e a dirgli chi sei tu, chi sei tu? Ah, noi siamo figli di Abramo! Ecco, e lui risponde, non cominciate a dirmi che siete figli di Abramo perché Dio può far nascere figli di Abramo anche dalle pietre. Però, avete mai visto nascere un figlio di Abramo da una pietra? 444-391-0825, se c'è qualcuno che lo può testimoniare. Chiami subito, così, ecco, è una cosa che Dio può fare? Certamente sì, ma è una cosa che Dio non ha mai fatto, perché sarebbe un inutile sfoggio di potenza. E Dio non fa, a differenza degli smargiassoni, non so se li conoscete, tipo Satanasso e gli amici suoi, non fa inutili sfoggi di potenza, non li fa. E non interessa nulla che la gente non creda che lui sia onnipotente e tutto il resto, perché non è un problema suo, è un problema di chi non ci crede. Quindi non è assolutamente un problema suo. Allora, attenzione. Poste queste cose, allora vuol dire che Dio ha liberamente voluto che nella trasmissione della vita naturale, biologica, umana, che è sua prerogativa, e anche nella trasmissione della vita soprannaturale, cioè della grazia, che è, se vogliamo, ancora più sua prerogativa, perché santificare un essere intelligente, dice San Tommaso, è cosa più grande che crearlo. Lui dice che la conversione di un peccatore è opera più grande che la creazione dell'universo, questo lo dice San Tommaso d'Aquino, quindi prendetevela con lui, non con me. Quindi in queste due opere Dio ha liberamente scelto di coinvolgere le creature umane. Per quanto riguarda la prima fattispecie, un uomo e una donna. Ecco, nonostante le leggi che stiano per discutere nel Parlamento italiano e contro cui noi ci opporremo, insomma, sempre e comunque. Io scherzando dicevo, se entra in vigore la legge contro l'anti-omofobia, mi candido ad essere il primo che va a finire in galera, perché tanto. Sarebbe, come dire, ridursi ad una condizione peggiore degli stati totalitari. Tra l'altro, poi a volte qualche stato totalitario ti imbavagliava, ti toglieva la parola, ma almeno non c'era la crisi. Ecco, invece adesso qui ti tolgono la parola, libertà di parola, poi ti tolgono pure tutti quanti i soldi, tutte le tasse che pagano, e stiamo solo loro della bancarotta fraudolenta, che ti tolgono tutto, insomma, quindi a sto punto, ecco, se uno tolto per tolto, chiudiamo questa parentesi prima di parlare troppo, insomma, comunque. La vita umana nasce dal concorso di un uomo e di una donna. La vita soprannaturale invece vuole un maschietto, anche questo è altro argomento posto in discussione, battezzato di sesso maschile, non di sesso femminile. D'accordo? Punto. Queste cose però dobbiamo sempre non dimenticare che sono doni che Dio ha fatto. Doni che Dio ha fatto che cosa significa? Che sono doni, non sono diritti della persona. Cioè, se tu ti sei sposato e sei aperto alla vita, Dio potrebbe farti il dono di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino a 25 figli. Pensate che Santa Caterina da Siena mi sembra che fosse la 24esima figlia. Pensate se i genitori di Santa Caterina avessero usato gli anticoncezionali antichi, non ci avremmo avuto una delle più grandi sante d'Italia di tutti i tempi. D'accordo? Però potrebbe anche darsi che il Padre Eterno dica questo dono. Per motivazioni che non è importanza conoscere, io adesso non te lo faccio. Non te lo faccio. Non te lo faccio. E se Dio fa questo, tu non puoi pretendere che te lo faccia. È la stessa cosa che riguarda la vita di un candidato al sacerdozio. Allora, io quando volevo fare il pre, volevo, ho sentito questa cosa. Cosa devi fare? Ti metti a disposizione della Chiesa, parli col vescovo, vedi se entra in seminario, dopodiché tu c'hai tutto quanto un tempo abbastanza lungo dove si fa un discernimento. Discernimento della vocazione, perché non è mio diritto diventare prete. Se la Chiesa riconosce che questa vocazione viene da Dio, mi conferirà il sacramento dell'ordine sacro. Se questo riconoscimento non c'è, io torno tranquillamente a casa mia. E non è che posso andare a fare causa al vescovo e chiamo, gli vado a fare causa contro il Papa a dirgli: ah, io voglio diventare prete e il vescovo mi ha detto di no, quindi gli faccio causa. Tanto non fa nessuna causa perché il Papa risponde: il vescovo, che ci ho messo io lì, perché l'ho nominato io il vescovo, ha fatto il suo discernimento e ha riconosciuto che questo dono tu non ce l'hai. Poi fai una bella letterina al Padre Eterno. Manda una bella letterina al paradiso, se sai l'indirizzo, e digli: oh, io volevo questo dono e non me l'hai fatto, perché? E vedi se ti risponde. Ma comunque su questa terra non c'è possibilità di porre rimedio a questa lacuna, d'accordo? Perché se non vogliamo, insomma, il Padre Eterno fa i suoi doni, ripeto, a chi vuole, se vuole, quando vuole, come vuole e quanto vuole. Punto. Il dono a te non te l'ha fatto? Non te l'ha fatto, nella vita si farà altro, perché non è la fine del mondo se il soggetto X, che aveva anche dato la disponibilità a diventare prete, prete non ci diventa, farà altro nella vita. E non è che c'è soltanto questo da fare nella vita. Similmente, tu ti sei sposato con tante buone disposizioni, con tanti buoni propositi, voglio, guarda, voglio. Don Leonardo mi ha fatto una testa come un pallone, quindi voglio essere aperto alla vita e voglio fare al minimo la squadra di calcio. D'accordo? Bravo! Che succede? Non riesce a farne manco uno di figlio. Che vogliamo fare? Che cosa vogliamo fare? Qui si inseriscono le tecniche di cui stiamo per parlare oggi. Tecniche che sono una forzatura, quindi un voler forzare violentemente, quindi calcando la mano, una situazione di fatto che non prevede la possibilità di concepire una vita nel modo naturale e ordinario con cui questa vita viene. E tra l'altro, nella consapevolezza che ne dicano alcuni presunti scienziati o pensatori ultramoderni, che nella legge naturale che oggi viene messa sistematicamente sotto i piedi, d'accordo? Perché per esempio tutto il discorso dell'omosessualità, di cui adesso apriamo una piccola parentesi, per forza dobbiamo farlo, riguarda questo tema, nella legge naturale insegna, ha sempre insegnato la Chiesa sulla scorta dei classici, anche dei filosofi, e tra cui del grande San Tommaso d'Aquino, c'è cioè proprio cristallizzata quella parte della legge divina conoscibile da ogni uomo in quanto uomo. Quindi sulla legge naturale, se uno osserva bene ciò che accade in natura, si può divenire ad una concordia e ad un accordo anche senza una specifica scelta e opzione di tipo confessionale. Tanto per fare un esempio, guardate alla mobilitazione spaventosa e mass mediatica che realizzò meritoriamente, secondo me, qualche tempo fa, Giuliano Ferrara, che tutti conoscono, Giuliano Ferrara, che ha sempre detto di non essere credente. Scherzando, si autodefinisce un ateo devoto, eppure lui è contrarissimo all'aborto. E c'ha, non mi ricordo se sei figli, mi ricordo che una volta io ero andato a un meeting di Comunione e Liberazione, c'era ospite lui, si mise a prendere in giro il moderatore che dice: ah, tu quanti figli hai? 5? E tu sei cristiano o 6? Quindi comincia a stare zitto, perché io che non ho la tua fede, c'ho più figli di te. Si è messo a prenderlo in giro davanti a tutta quanta, prenderlo in giro, insomma, scherzosamente e amorevolmente. Quindi, quando si parla di legge naturale, si tocca un tema fondamentale nella dottrina cattolica, perché lì c'è depositata quella parte di legge divina, tra cui anche alcuni dei 10 comandamenti, che sono riconoscibili da ogni uomo che voglia far funzionare correttamente quel po' di materia grigia che si spera ci abbia sotto la scatola cranica. Ecco. Quindi, figuriamo, mettere in discussione questo aspetto della realtà, cosa che oggi tutti quanti hanno fatto, significa autoporsi fuori della possibilità di ascoltare, almeno ad un primo livello, ciò che ti Dio, come scrive San Paolo nella lettera ai Romani, è da tutti in qualche modo percepibile e conoscibile. Sono 17 ragazzi, facciamo una piccola pausa e, come sempre, recitando in onore della Madonna della Miraglia Miracolosa, questa è l'ora della sua apparizione, insieme un'Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora, all'interno del nostro tema, cosa dice la legge naturale? La legge naturale dice una cosa molto semplice, che la vita nasce, almeno nella attuale, dicono i padri, economia. Quindi economia vuol dire noi siamo uomini e donne, figli di Adamo e di Eva, quindi che siamo tutti soggetti alla legge del peccato originale. Credo che in altre puntate ho accennato ad alcune idee teologiche rispettabili, pur non essendo dogmi di fede, che, come dire, lasciano intendere che se non ci fosse stata la colpa d'origine, forse gli argomenti di cui stiamo parlando sarebbero stati, come dire, vissuti e da gestire in una maniera differente. Però, tanto questo lo sapremo quando andremo in paradiso, noi non possiamo adesso ipotizzare e fare i se o i ma. Dobbiamo prendere atto della realtà che viviamo, così come c'è data di conoscerla nello stato attuale di natura decaduta. Quindi, nello stato attuale di natura decaduta, i figli nascono da ciò di cui stiamo parlando, quindi dai cosiddetti atti coniugali compiuti tra un maschio e una femmina. Punto e basta. Quindi quella è la via, non solo la via ordinaria, ma è la via unica di concezione di una vita. La fede aggiunge il fatto, per carità, oggi non troppo da dare per scontato, che questa operazione dovrebbe essere posta in essere dopo aversi giurato solennemente fedeltà davanti all'altare, evitando che si arrivi all'altare, come spesso e volentieri succede, con l'ultima moda di cui spero aver parlato in qualche puntata precedente, che sono i bambini di 4-5 anni che portano le fedine a papà e a mamma, le fedine nuziali, e poi ovviamente gli invitati, che sono molto intelligenti e molto buoni, quando vedono i figli che portano le fedi nuziali a papà e a mamma durante il matrimonio, si commuovono e fanno un'eccezione al fatto che non si possono fare gli applausi in chiesa, perché per questo bisogna fare un applauso super a papà e a mamma. Bisogna dirgli: ma quanto siete stati bravi, guarda, ma proprio qua, cioè, che scena commovente! Ti portano le fedi nuziali il tuo bambino e la tua bambina. Evviva, che bello! Ecco. Quindi la fede aggiunge a questo, diciamo, aspetto della legge naturale, se vogliamo, solo questa dimensione, nel senso che Questa modalità ordinaria di concepimento della vita dovrebbe essere posta in essere dalla prima notte di nozze, dopo nozze celebrate non davanti a un uomo con una fascia tricolore trasversale che va da destra a sinistra come sindaci, ma davanti, magari perché può farlo anche un diacono un matrimonio, che ci abbia sopra un camice una veste trasversale che vada da sinistra a destra, oppure un'altra banda, ecco, sempre di stoffa che vada dall'alto in basso su tutte e due le spalle, insomma, che sarebbe la stola dei sacerdoti. Quindi non... La fede aggiunge soltanto questo. Il resto è di legge naturale. Allora, e se questo non succede, che cosa dobbiamo fare? Se questo non succede, entrano le nostre tecniche di cui stiamo parlando adesso. Allora, se io sono convinto che la vita non è un dono di Dio, quindi soggetta alla sua amministrazione, che può presentare dei punti oscuri, di cui noi dobbiamo semplicemente prendere atto e agire di conseguenza. Perché alcune coppie aperte alla vita hanno 10 figli e altre, e io le conosco, sono sempre state aperte alla vita e ce n'hanno uno o al massimo due? Perché? Ecco, è qui che entra il mistero della volontà di Dio, dinanzi a cui noi dobbiamo semplicemente piegarci e adeguarci. Perché Dio non è mica tenuto a dire a me perché fa una cosa oppure un'altra. Perché il Padre Eterno ha scelto il sottoscritto per fare il prete, non ha scelto un altro, che magari avrebbe avuto da un punto di vista umano molti migliori attributi e requisiti per fare meglio questo ministero? Ah, io questo non me lo posso mica sapere, eh? Se uno apre la Bibbia e guarda la storia di Davide, Davide, il più grande re di Israele, certamente non quello che noi chiamiamo uno stinco di santo a quello che ha fatto nella sua vita. Un cuore indubbiamente pieno di zelo e di amore per il Signore, ma un cuore che ha combinato dei guai. Quando Samuele è andato a ungerlo, figura il padre, che quello gli dice: fammi un po' vedere chi sono i tuoi figli, neanche l'aveva fatto presentare. Allora cominciamo dal primo fino al settimo. Davide, che era un ragazzino piccolo che stava pascolando il gregge, neanche era stato calcolato. A un certo punto Samuele dice: guarda che il padre non ha scelto nessuno di questi figli, però mi ha detto che il re era uno dei figli tuoi, che vogliamo fare? Ma veramente ci sta ancora uno, ma quello è piccolo, sta per ancora, dice, vada a chiamare un po'. E era proprio quello che era stato scelto da nostro Signore. Quindi, allora, per questo che ho fatto tutta quella lunga premessa, allora, dentro questo si chiama il mistero della vita. Quando noi stiamo dinanzi a un mistero, il mistero, nell'ambito delle dimensioni di fede, non è una realtà, come dire, assolutamente evanescente e incomprensibile, quello che diciamo cosa assolutamente misteriosa, non si capisce niente. No, non è esattamente questo. Il mistero è una realtà di fede dove tu puoi conoscere tranquillamente, comprendere i tratti fondamentali, le linee guida, le linee, come dire, fondanti. Però poi non puoi andare a pretendere di scandagliarne i minimi dettagli e i minimi particolari. Questo vale per tutti i misteri. Pensate al mistero della presenza del male, mysterium iniquitatis. Io più tempo passa e più mi rendo conto che questo è veramente un mysterium. Perché noi, per quanto riguarda il male, sappiamo alcune verità di fede, d'accordo? Quali sono? Uno, che il demonio non è come il Padre Eterno, quindi non è un antidio come pensavano i manichei, è una creatura che è nata buona e che è diventata cattiva. Uno. Secondo, che il suo essere diventato cattivo ha coinvolto altre persone, persone spirituali, quindi altri angeli decaduti. Terzo, che la loro scelta è irreversibile, quindi non torneranno mai buoni. Quarto, che dentro questa scelta cattiva fanno guerra al Padre Eterno e cercano di e sedurre al male le anime dei comuni mortali per travolgere nella loro dannazione. E questo lo fanno per odio a Dio, che ama tutte le creature che lui ha creato. Ma quinto, sappiamo anche che Gesù Cristo è venuto sulla terra e l'ha vinto al demonio. E sesto, sappiamo anche che il demonio non ha un ambito di azione limitato, ma che fa soltanto quello che Dio gli permette. Tra l'altro glielo permette dopo averlo vinto in Gesù Cristo. Dette queste cose, cosa succede? Succede che qualche teologastro, che c'ha sempre la carta d'identità dell'isola che gli ho detto prima, comincia a dire: ah, che problema c'è? Ma Gesù Cristo ha vinto il demonio, ma l'azione del demonio è limitata, quindi noi possiamo stare tranquilli ormai. Cioè, il problema del demonio, sempre del demonio, il potere del demonio è nullo, perché non può agire se non nei limiti in cui tu gli permetti di agire. Gesù Cristo l'ha già vinto, noi siamo battezzati, rivestiti delle sue cose, che ci può fare il demonio? Assolutamente niente. Giusto? Io non credo, ragazzi, perché da quello che si vede non sembra affatto così, anzi, a volte quello che si vede nel mondo sembra addirittura contraddire la verità di fede, perché sembra che il demonio abbia uno strapotere talmente grande, sembra, non è così, che ti lascia assolutamente sconcertato, che tu dici: certo che Dio è più grande di lui, certo che la sua azione è limitata da ciò che Dio gli permette di fare, certo che Gesù Cristo l'ha già vinto, però questo sta a fare un sacco di guai. E uno non riesce, come dire, come dicono dalle parti del nord, a tirare la quadra su questo fatto, quindi dice, quindi a capire bene. Noi sappiamo abbiamo un altro dato di fede, che come dire, la forza del demonio è proporzionata a quanto l'uomo gliene dà peccando. Quindi, siccome oggi fanno un sacco di peccati gli uomini, grande potere c'ha il demonio, certamente. Ecco, però, questo per dirvi come nell'orizzonte della fede noi abbiamo delle coordinate chiarissime, però non possiamo pretendere, è qui che interviene, vi ricordate, il famosissimo aneddoto di Sant'Agostino, cioè perché dentro il cattolicesimo noi ci muoviamo tra due estremi, che sono quelli eretici dei luterani, che dicono che la fede è cieca, tu devi credere e basta, senza pretendere di capire nulla, senza pretendere di... questo è... E ci abbiamo però anche l'altro estremo, che è il razionalismo. Che è il razionalismo, che è la pretesa di capire tutto, anche dentro l'orizzonte della fede, che è il peccato che hanno fatto in questi ultimi anni. Guardate anche quello che è successo negli ultimi 100 anni con gli studi biblici, come hanno ridotto la Sacra Scrittura, l'hanno sviscerata, l'hanno squartata, hanno cominciato a fare le cose, l'esegesi scientifica, chi ha scritto questo, chi ha scritto quell'altro, le tradizioni, le cose, gli impicci e gli imbrogli. Dopodiché, uno prima un testo biblico l'ha squartato, d'accordo, sa che è stato scritto in 500 anni, ammesso che sia vero da questa, e poi dice: ma sì, ma a me che me importa tutte queste cose? Io quando prendo la Bibbia devo trarne un alimento interiore, che mi dice a me? E tu trovi super esegeti che sanno squartarti la Bibbia in 100.000 pezzi e sanno fare una predica. Dico, mi spieghi che senso c'è tutto questo lavoro che hai fatto? A che serve? Quindi la fede si muove dentro questi due estremi, che è quello del fideismo e del razionalismo. Il fideismo dice: credi senza capire niente. Il razionalismo dice: non credo se non ho capito tutto. Non esiste. Vi ricordate le encicliche di Giovanni Paolo II, no? Beato, Fides quaerens intellectum e intellectus quaerens fidem, la fides et ratio, fides et ratio, cioè la ragione si muove all'interno dell'ambito della fede, si muove discretamente, mostrando la piena ragionevolezza in tutti quanti i contenuti di fede, ma non può, come dire, pretendere di sfondare e aprire tutte le chiavi di tutti i misteri, perché questa non sarebbe più fede. Sant'Agostino diceva: si comprehendis non est Deus, cioè se tu lo comprendessi in tutto non ci saresti davanti a Dio, perché tu che sei limitato e sei un uomo, per comprendere qualcosa, quel qualcosa deve essere più piccolo di te, ma i misteri della fede sono tutti più grandi di noi, quindi noi ci presentiamo dinanzi a loro dal di sotto, quindi potendone coglierne qualcosa, ma non potendoli comprendere tutti e nella loro totalità e nei loro singoli aspetti particolari. L'aneddoto di cui vi parlavo era che Sant'Agostino, che è stato un grandissimo, era un mostro, insomma, una persona intelligentissima, tutte le cose che ha scritto Sant'Agostino a quei tempi, senza avere il Mac, senza avere Word, eccetera, non so come ha fatto a scrivere tutta la roba che ha lasciato scritta. In una vita basterebbe, cioè, se uno volesse aggiungere le opere di Sant'Agostino, non lo so come ha fatto, però ha dovuto anche lui prendere coscienza e rendersi conto della limitatezza. Lo sapete che gli apparve a un certo punto in visione un bambino che stava sulla spiaggia del mare e aveva fatto una buca, dopodiché c'era una conchiglietta e andava sulla riva del mare a prendere acqua e a portarla dentro la buca. Sant'Agostino lo guarda e dice: ma Dice, che sta a fare sto ragazzino? Lo guarda, lo guarda, a un certo punto dice, scusa, scusa bambino, dico, ma tu che fai? Come che faccio? Io adesso metto tutto quanto il mare dentro una buca. Ah, dico, ah, dico, fai presto, cioè tu con la conchiglietta, dico, lo, ma lo sai quanto è grande il mare? E lo sai quanto è piccola la conchiglietta? E poi lo sai quanto è piccola una buca? Tu vorresti mettere, tu sei fuori di testa. E quello gli ha risposto, non meno di quanto sei fuori di testa tu, che vorresti mettere Dio, che è molto più grande la sua proporzione, la sua grandezza rispetto a te, di quanto il mare lo rispetta a questa buca. Tu vorresti mettere Dio dentro la tua capoccetta, ma è più facile che io metta il mare dentro questa buca che non che tu metta Dio dentro la tua capoccetta. Allora, capoccette, quando il Padre Eterno dice questa vita non te la do, ecco il momento in cui dice, e perché? Noi cominciamo a dire, e perché? Che male ho fatto? Perché gli altri sì e io no? Perché io devo essere frustrato, poverino, in questo mio diritto? E sono tanto triste perché non posso avere il mio bel bambino. Perché? Perché Dio non vuole. E perché Dio non vuole? Non si sa. Non si sa. Perché io che so prete, sto nella parrocchia dove mi trovo da neanche 7 anni, no, da 7 anni appena suonati, e in 7 anni ho dovuto celebrare, dico, tre funerali di bambini al di sotto dei 12 anni, punto interrogativo. Cosa andiamo a dire ai genitori di quelle famiglie lì? Perché quei ragazzini sono morti? E io sono vivo e ce n'ho 43, 2 anni, non mi ricordo manco quanti anni ho. Cioè, ci sono alcune domande che non possiamo rispondere. Quindi noi dobbiamo avere sempre nei riguardi del padre un atteggiamento che devi fare un passo indietro. Cioè, perché Padre Eterno è il Padre Eterno, cioè, tante cose il Padre Eterno non ce le dice e non, ce le vuole, non è tenuto a dircele e non ce le vuole dire, perché vuole che noi camminiamo nella fede e nell'adorazione dei suoi decreti a noi oscuri e nell'esecuzione dei suoi voleri a noi chiari, perché tanto basta che uno guarda quello che succede nella vita e conosce la volontà di Dio e la fai zitto e mosca, punto e basta. Allora, come ho avuto modo recentemente di dire a una coppia, quando una coppia non ha dei figli ci possono essere varie motivazioni. Varie. Ci sono, noi conosciamo alcune motivazioni, eh? Allora, una di queste qua è completamente. Ce ne sono alcune che sono irreversibili, altre che sono reversibili, ma non a fecondazione e inseminazione, di cui poi parleremo, che ancora non iniziamo a parlare. Ma attraverso altri sistemi. Allora, una coppia non è feconda perché? Uno, per motivazioni, come dire, assolutamente biologiche e naturali. Uno fa gli esami, fa le visite e vede che c'è un problema organico, biologico o chimico, quello che volete, che impedisce la generazione. Uno. Secondo, può darsi che Dio voglia mettere la fede di quelle persone alla prova, quindi stanno bene. E per un certo tempo non gli dà un figlio perché si aspetta che attraverso qualche preghiera o qualche operazione questa coppia impetri dalla sua misericordia il dono di questa vita. Secondo. Terzo, può darsi che il Signore abbia deciso di non dargli delle vite perché vuole che quella famiglia si occupi nella vita di altro, quindi non di fare il padre e la madre, ma tutto il tempo libero che hanno non avendo i figli, adoperarlo in altre finalità che per il Padre Eterno, in relazione a quella coppia, sono più urgenti e più importanti. Punto. Apostolato, servizi ai poveri, aiuto in parrocchia, non lo so, però. Quarto, anche se questo non piace quasi a nessuno, ma a me non mi interessa, lo dico lo stesso, può darsi che la privazione totale o temporanea del dono della vita sia un castigo. Non gli piace a nessuno, a me non importa niente. Vi ripeto, è impossibile poi nel caso concreto andare a stabilire quale sia. Io sto parlando chiaramente, discorso che ho fatto prima, di ipotesi teoriche, però qualcuna di quelle è vera dal punto di vista pratiche. Castigo che significa? Significa che hai avuto una condotta sessuale disordinatissima per anni e anni e anni, offendendo Dio, ammazzandoli di contraccettiva, facendo 3.000 aborti, eccetera, eccetera. E a un certo punto Dio dice, vabbè, adesso per un certo periodo i figli non te li do. Così fai un po' di penitenza e e pensi a quello che hai fatto. Questo è possibile? È inutile che vengano a dire tutte le cose qui che la gente le straccia le vesti, anche se non piace a nessuno. 5, siamo arrivati al numero 5, ancora più misterioso, può darsi che tu non ci abbia figli, e di queste situazioni ho conosciuto già non poche, a causa di qualche male malefico che ti abbiano fatto, per invidia. Cioè, ti è stata tolta la possibilità di concepire una vita perché ti hanno fatto un maleficio. Basta leggere i libri degli esperti in merito. In quel caso bisogna rivolgersi a qualcuno che ci capisca di queste cose, perché per riottenere il dono della vita bisognerà compiere dei gesti particolari che neutralizzino il male che è stato fatto attraverso questa cosa. Punto. Quando una vita non nasce, è una di queste cinque, non ce ne stanno, almeno che io sappia, ci ho tanto pensato, non ci sono altre possibilità. Io ho conosciuto una coppia tanti anni fa che mi vennero a dire: guardi padre, noi da un punto di vista biologico stiamo bene, nessun problema, nessuna cosa a destra e a sinistra. Non vorrei sbagliarmi, da quello che mi ricordavo non erano persone che avevano offeso chissà come e chissà quanto il Padre Eterno. Quindi io gli dissi: sentite, provate a fare una cosa. Punto primo, l'avete mai chiesto con fede un figlio al Padre Eterno? Allora, cominciate a pregare. E poi chiedete a sto figlio alla Madonna. Andate in qualche santuario a fare un pellegrinaggio. Andate dalla Madonna e digli: senti, noi ti chiediamo umilmente il dono di questo figlio. Anzi, ti faccio pure un voto. Se tu mi dai questo figlio, non lo so, tornerò in pellegrinaggio una volta ogni 2 anni, tutti gli anni a ringraziarti, ditegli qualcosa. La famiglia un anno dopo è ritornata che erano incinta, che lei era incinta. Qual era di queste cinque? Era la prova, era la numero due. Quindi quando non ci sono delle difficoltà, come dire, a livello biologico, uno va tutte quante le visite possibili, la prima cosa che deve fare, secondo me, è intensificare la preghiera. Anche in questo modo. Se anche con la preghiera non funziona, e ripeto, da un punto di vista scientifico, non ci sono possibilità di equivoco. Uno, o se fa bene l'esame di coscienza e se fa una buona confessione, per evitare insomma che si avesse offeso in passato il Signore, perché può darsi che dipenda anche da quello, oppure, in caso proprio che manco quello funzioni, se conosce qualche buon esorcista e magari sa che c'è qualcuno che può aver avuto invidia, odio, cose di questo genere, nei loro confronti, ecco, pare che oggi il mondo pulluli di matti scatenati, ebbene che apra a livello di consultazione senza nessuna, come dire, forma di psicosi o di paura, quest'ultimo ambito di applicazione. Allora, rapidissimamente, parliamo della fecondazione omologa e eterologa, che è poi la stessa cosa per quanto riguarda l'inseminazione. Si dice che queste tecniche sono omologhe quando sono applicate tra semi e ovuli dentro la coppia stessa. Quindi c'è il marito e la moglie che ricorrono a una di queste due tecniche. D'accordo? Abbiamo già spiegato cosa sono. Si dice eterologa invece quando, dipendendo la sterilità da uno dei due, si ricorre ad un donatore esterno alla coppia. D'accordo? Quindi, d'accordo? Ora, la fecondazione è sempre moralmente illecita per due motivazioni. Due. La prima è quella che abbiamo già visto, che dovrebbe essere evidente, e che è comune all'inseminazione, che è la violazione della legge naturale. Cioè tu forzi la nascita di una vita che dipende dai voleri di Dio, ricorrendo ad una tecnica diversa da ciò che naturalmente è atto e adatto a far nascere una vita, prima cosa. Ma la seconda cosa è che la fecondazione artificiale comporta necessariamente la morte di una serie di embrioni. Perché? Perché la fecondazione abbia successo, non si può prendere soltanto un ovulo fecondato e immetterlo dentro l'utero di una donna, perché sicuramente quella gravidanza non andrà in porto. Bisogna fare un'immissione multipla. In Italia la legge 40, che non è moralmente lecita, anche se a suo tempo, come dire, la Chiesa disse di non andare a votare al referendum abrogativo perché abrogare la legge 40 sarebbe stato aprire le porte ad una legge peggiore di questa. Non perché questa vada bene. Però la legge 40, come dire, ha raggiunto parte degli obiettivi di moralità su questo tema perché uno vieta la fecondazione eterologa di cui parleremo subito adesso e secondo limita il numero di embrioni da impiantare. Quindi vuol dire che ogni volta che fai la fecondazione artificiale ammazzi tre vite umane. Perché attenzione ragazzi che un ovulo fecondato. Secondo la dottrina comune, anche se non è un dogma di fede, ma è una dottrina comune quasi universalmente riconosciuta nel cattolicesimo, l'anima viene creata dal padre nel momento stesso del concepimento. Quindi uno zigote c'ha già l'anima. Se questi muoiono, tu stai uccidendo delle persone umane. Quindi se tu hai fatto 4, 5, 6 fecondazioni artificiali che non sono andate in porto, c'hai 18 morti sulla coscienza. D'accordo? E non è come nell'aborto spontaneo, perché l'aborto spontaneo può succedere, ma non c'è un concorso tuo. Cioè, tu optando per questa tecnica, sei già sicuro che alcuni embrioni moriranno, senza alcun dubbio. E tu, pur da avercene uno che sia figlio tuo, facciamo una negatombe, una carneficina. Guardate che è una cosa grave. Perché è un po' come la spirale tra i mezzi contraccettivi. La spirale non è un mezzo contraccettivo, come ho detto la volta scorsa, perché la spirale uccide uno zigote, perché impedisce l'annidamento, non il concepimento. Allora, sotto questo punto di vista, l'inseminazione è meno grave, perché nell'inseminazione questa roba non succede, non avviene, d'accordo? Perché si cerca comunque di realizzare in forma meccanica un concepimento intrauterino. Però, pur non essendoci quest'altra circostanza sommamente aggravante, rimane quell'altra dimensione, cioè la violazione della legge naturale ed una indebita forzatura dei misteriosi decreti e voleri divini. Punto. Quindi attenzione poi che aprire le porte alla fecondazione eterologa, voi capite subito cosa significa, questo lo stiamo già vedendo, sapete tutti quanti che in Inghilterra abbiamo Elton John che hanno già fatto il primo figlio, adesso faranno il secondo, il figlio loro, perché sono una coppia omosessuale, si sono fatti prestare il cosiddetto utero in affitto e quindi adesso hanno fatto un figlio con un utero in affitto e col patrimonio genetico dell'amichetto di Elton John, e adesso si farà un figlio anche Elton John, sempre con un utero in affitto e con il patrimonio genetico proprio. In parte perché sono 23 su 46, quindi capite cosa succede con questa roba qui? Quindi questa è stata anche, come dire, il cavallo di battaglia e qui siamo in chiusura di trasmissione, io vorrei, fino a quando non mi mettono in galera, vorrei dire anche qualche cosa, tanto la dirò anche quando mi metteranno in galera. Allora, noi non possiamo assistere a queste catombe stando zitti, sapendo anche, come ho avuto modo di vedere, che i promotori di questa presunta legge anti-omofobia sarebbero stati alcuni membri di partiti, non voglio fare nomi, che sono stati durante la campagna elettorale a scrivere lettere anche a me, a parroci e a varie cose, dicendo, chiedendo il voto perché avrebbero tutelato i valori non negoziabili, eccetera, eccetera. Cioè, la legge che vorrebbero approvare, succede questo fatto qui, che io non posso dire, fermo restando che nessuno va a mettere al muro gli omosessuali o a perseguitarli o a fargli chissà che cosa, hanno fatto questo tipo di scelta, Dio lascia agli uomini l'arbitrio, non la libertà, perché quella non è libertà, di peccare, assumendosene chiaramente davanti a lui le conseguenze, ah, questo chi te lo impedisce? Né per questo viene privato di nessuna tutela comune a tutto il resto dei cittadini normali, come normali sotto questo aspetto sono anche loro, d'accordo? Perché questi vogliamo trattarli come scelte attinenti alla sfera privata? Trattiamoli come scelte attinenti alla sfera privata e basta. Ma che io non possa dire da prete che i peccati impuri contro natura, di cui nella Bibbia si parla chiaramente perché Sodoma e Gomorra sono state rase al suolo. E San Paolo, nel primo capitolo della lettera ai Romani, parla di perversioni, di uomini che hanno cambiato il rapporto naturale con la donna, unendosi agli altri uomini come uomini. Questa è parola di Dio, questa qui. Per cui non può essere che io a una condotta di questo genere possa applaudire o dire non è niente, hai fatto bene, c'è la benedizione del Padre Eterno. Ma non solo non posso dirlo e non devo dirlo. E non posso non dirlo, perché non è che se fanno la legge, io devo rispettare la legge e devo stare zitto se no mi mettono in galera, perché io dovrò per forza continuare a dirlo. Ecco, per forza. Perché chi fa questo fa un peccato mortale e se non ha circostanze discriminanti soggettive, che tra l'altro soltanto Dio conosce, e noi dobbiamo agire come se non ci fossero, perché noi comunque, cioè i ministri di Dio devono semplicemente dire questo è bene e questo è male. Poi il giudizio sulla persona spetta sempre al Padre Eterno, perché una persona fa quel peccato, se c'ha delle circostanze attenuanti o anche scriminanti, questo nessuno lo può sapere. Né possiamo darlo per scontato, perché noi dobbiamo pensare che una persona è libera, intelligente e responsabile. Quindi una volta che si rende conto che questo è bene e questo è male, se lo fa, ne risponde davanti al Padre Eterno. Ma questo si deve dire. E che tu mi attappi la bocca, io non posso dire una cosa di questo genere perché offenderei gli omosessuali. Se lo faccio, mi porti in galera, dopodiché mi mandi alla scuola di rieducazione, cioè io devo essere rieducato perché devo essere, come dire, questo non hanno fatto neanche i comunisti con le scuole di ateismo in Russia. Cioè, allora, oh, stiamo davvero esagerando. Ovviamente questo, spero che tutti siamo intelligenti e apriamo gli occhi, è il primo passo per fare poi i matrimoni omosessuali, le adozioni omosessuali e la fecondazione eterologa anche alle coppie di omosessuali, perché se nessuno può dire che questa è una cosa moralmente inaccettabile, non dico giuridicamente, perché giuridicamente fate quello che volete, ma moralmente inaccettabile, almeno per chi è credente. Ma anche per chi non è credente, per cui sono atti contrari alla legge naturale, non soltanto alla legge di fede. Se io questo non lo posso dire più, vuol dire che non c'è niente di male, vuol dire che è una scelta come tante altre, e quindi perché a questo punto non dovrebbe avere la tutela giuridica identica a quella delle cosiddette persone normali? Quindi famiglia, figli propri e adottati, e guai a chi dice a. Allora, noi dinanzi a questo, noi diciamo no. E siamo tutti quanti pronti, ecco, se qualcuno sentirà questa trasmissione la senta pure, ad andare tranquillamente in galera quando dovremo continuare a tenere alta la voce quando anche pretendessero di chiudercela. Soffriremo un pochino, ecco, però se dobbiamo ritornare ai tempi di 2000 anni fa, quando i cristiani semplicemente per il fatto di essere tali venivano incarcerati e poi venivano mandati sbranati dai leoni, diciamo che a noi ci va un po' meglio perché i leoni ancora non l'hanno ritrovati in giro, non lo so se si inventeranno qualche altra tortura, questo dovremo fare, ma certamente su questo noi non possiamo tacere e la cosa che a me addolora e chiudo è che io temo, spero di sbagliarmi, che non pochi sedicenti cattolici e forse ahimè, ahimè, spero sempre di no, anche qualche mio confratello, dinanzi a una cosa del genere abbiano ad applaudire come gesto di misericordia, di amore, di accoglienza e di bontà verso questi poveri nostri fratelli che li trattano tutti male e che gli vogliono tanto male. Questa è la paura che ho, che spero che non sia vera. Ecco, però avendo visto alcune cose che sono successe, anche in alcuni fatti di cronaca relativamente recenti, mo uso un'espressione di Gesù, chi può capire, capisca, qualche piccola preoccupazione anche su questo punto a me sta venendo. Chiediamo al Signore che ci conservi sempre il senno e il discernimento per comprendere bene ciò che è bene e ciò che è male. Vi do appuntamento alla settimana prossima, vi mando a tutti le mie benedizioni, ragazzi, a tutti, Ave Maria.